guarda fatti, ma quel volto, ma quel volto, onde soffri, onde soffri, guarda fatti. Sanco il fuoco di tal fuoco, presti te all'olci in te. Credi a me, credi a me, che sei spedì. Credi a me, sanco il fuoco di tal fuoco, presti te all'olci in te.